in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che avete sentito a questo taglio molto Sole 24 Ore, di guardare alle Olimpiadi, calcolando appunto quali sono le province, le città e le regioni che hanno contribuito di più al medagliere italiano. Trovate tutto alle pagine 4 e 5 del Sole di oggi, con anche un articolo di Maria Luisa Colledani, che è la nostra inviata a Rio, che si intitola "I giochi scendono in campo i distretti". Il titolo principale però è dedicato a un altro grande tema irrisolto del nostro paese, che si sta cercando di in qualche modo si sta cercando di affrontare da tanti troppi anni. Parlo naturalmente dell'evasione fiscale. E sul Sole 24 Ore di oggi trovate un'inchiesta che dà proprio una geografia dell'evasione, con le aree più a rischio. In Calabria, Sicilia e Campania il gap tra consumi e redditi si colloca oltre il 30%. Trovate tutto a pagina 2 e 3, i risultati dell'inchiesta, il commento di Bianca Lucia Mazzei. E poi ce n'è un altro di Dino Pesole, una politica fiscale seria per rilanciare la crescita, perché il tema è un po' sempre quello. In Italia, da una parte, chi è a reddito fisso o i pensionati pagano tantissime tasse, e poi però c'è questa evasione gigantesca dall'altro lato. E quando si leggono i dati medi sulle dichiarazioni che vengono pubblicati annualmente, ovviamente vengono i brividi, perché non, con certi redditi non sarebbe possibile vivere. Quindi è chiaro che c'è sotto questo iceberg sommerso dell'evasione. Per quanto riguarda il Focus Estate, l'iniziativa del Sole 24 Ore di agosto, oggi è il sesto giorno perché è iniziata lunedì scorso, è una guida per i professionisti. Il tema di oggi sono gli sconti su lavori in casa, energia e arredi, quegli sconti fiscali che sono stati introdotti e poi prolungati, per i quali bisogna seguire però delle regole molto precise, pena rischiare che non ci siano poi le detrazioni. Quindi, per esempio, fare i bonifici con la giusta dicitura, e tutto questo lo trovate alle pagine 16 e 17. La prima pagina del Corriere della Sera ha una foto notizia dedicata alle 5 medaglie di ieri, con l'esultanza dei due ori, quindi Fabio Basile nel judo e Garozzo nel fioretto. Poi l'argento di Francesca Dallapè e Tania Cagnotto, e qui la foto è di loro due perfettamente sincronizzate che si tuffano tra l'altro di schiena. E poi sono stati 5 i tuffi, questo è soltanto uno dei 5 tuffi, e poi la Giuffrida, che invece ha vinto l'argento anche lei nel judo, e poi un'altra ragazza, la Longo Borghini, che invece ha vinto la medaglia d'oro nel ciclismo. E questa è una specie di collage con il titolo "Due ori nel giorno delle medaglie", perché appunto ieri ne sono arrivate tante, anche un po' a sorpresa. Il titolo vero e proprio però è dedicato a quello che sta succedendo a Ventimiglia: tensioni e arresti, a Ventimiglia arrivano i rinforzi. Vi segnalo anche sulla questione delle Olimpiadi un commento secondo me abbastanza ingeneroso di Aldo Grasso, che trovate a pagina 51 del Corriere della Sera, e critica molto la copertura della RAI, perché dice nell'unico canale che è completamente in chiaro ed è il più facile da vedere è RAI 2, è mancata una regia delle varie gare, e la parte finale proprio è completamente fuori posto secondo me rispetto a quello che poi è successo ieri, perché parla del fatto che una rete generalista deve essere per forza prigioniera del calendario delle gare. Sabato sera in prima serata c'era judo, con tutto il rispetto per la disciplina. Appunto, ricordiamo che poi ieri un ragazzo di 21 anni ha regalato la famosa 200ª medaglia d'oro all'Italia. Ma per Aldo Grasso questo non è abbastanza importante. Ma non era meglio far rivedere le parti più interessanti della cerimonia d'apertura? Boh, si domanda. Io rispondo no, però magari qualcuno di voi risponderebbe sì. Non era meglio organizzare dei servizi sulla sfortunata impresa di Vincenzo Nibali, privato di una medaglia per una rovinosa caduta? Io credo che quella notizia lì l'abbiamo sentita tutti, condita dai particolari del rientro di Nibali sul volo di stato del Premier. Conclude Grasso con una citazione del direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto: uniremo il racconto della competizione a quello di storie più personali. E poi Aldo Grasso conclude proprio: sì, ma se non ora, quando? E non lo so, insomma, mi sembra che le Olimpiadi siano anche un'occasione per mostrare gli sportivi e le discipline che durante l'anno proprio non hanno alcuna visibilità. Ma ripeto, ognuno su questo si sarà fatto una sua idea, una sua opinione. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali. Un ascoltatore mi dice che ho già iniziato il mio turno di lecchinaggio. Non so, può darsi, insomma, se gli ho dato questa impressione. Io credo semplicemente di aver letto appunto le prime due pagine. Adesso continuiamo con le altre. E a un altro ascoltatore che dice: lei si sente da Pulitzer? La risposta è naturalmente no. Legga le notizie di tutti i giornali. Ricordo a questo ascoltatore che io leggo tutte le prime pagine dei giornali che abbiamo in mazzetta, poi mancano forse quelli locali, compreso quello a cui sembra rifare riferimento l'ascoltatore, il giornale Libero, li leggo sempre. Siamo arrivati a Repubblica, che titola come il Corriere su quello che sta succedendo a Ventimiglia e sulla dichiarazione di Alfano: non sarà la nostra Calais, naturalmente in Francia, dove in passato, ma anche in questi giorni, passato recentissimo, ci sono stati scontri abbastanza simili a quelli che ci sono a Ventimiglia, cioè con migranti che cercano anche con la forza di passare la frontiera e poliziotti che sono lì per fermarli. La fotonotizia però è dedicata alla manifestazione che c'è stata ieri a Istanbul e il titolo: Erdogan sfida l'Unione Europea sui diritti, tanto che appunto ha proprio detto: se i cittadini dicono sì alla pena di morte, io sono pronto al sì, pronto cioè a ratificarla dopo che il Parlamento l'avesse reintrodotta. Era stato proprio Erdogan a eliminarla qualche anno fa. Naturalmente in prima pagina anche le storie delle Olimpiadi, anche se con meno enfasi rispetto al Corriere, Rio e ragazzi d'oro dell'Italia, e poi ci sono tantissimi articoli da pagina 32 a pagina 39. La Stampa ha una fotonotizia con i due ori di ieri, quindi da una parte Fabio Basile e dall'altra Daniele Garozzo, il campione della medaglia d'oro nel judo e la medaglia d'oro nel fioretto, ma il titolo vero e proprio, avete sentito forse anche nel GR, è questa inchiesta che ha fatto la Stampa, partendo da una notizia che arriva da Cupertino, che è la piccola città della California dove ha sede la Apple, perché c'è stata quella che viene definita una svolta. L'azienda, che è una delle aziende a più alte capitalizzazioni della borsa americana, se la gioca sempre con Google e altri giganti dell'high tech, ha deciso che uomini e donne avranno gli stessi stipendi, perché questo famoso salary gap, cioè il divario tra i salari e gli stipendi delle donne e degli uomini, esiste anche negli Stati Uniti. In Italia, ci spiega la Stampa in questa inchiesta, però è più alto ancora che in altri paesi, la differenza è del 10,9%, si calcola. Il Giorno, anche in questo caso un titolo su quello che sta succedendo a Ventimiglia, con anche gli arresti e poi le polemiche che sono seguite alla morte per infarto di uno degli agenti che due giorni fa seguiva appunto questi No Border, che sono una versione non altrettanto violenta dei Black Bloc, però sono gruppi di ragazzi giovani che organizzano manifestazioni perché almeno sulla carta vorrebbero abolire qualsiasi tipo di ostacolo ai migranti a passare le frontiere, quelle europee o di qualsiasi altro paese. Tra l'altro per ieri era stata annunciata una loro manifestazione che poi hanno disdetto proprio per rispetto alla morte di questo poliziotto il giorno prima. Ma a proposito, dicevamo di come cambia l'evasione a seconda delle regioni italiane, sul Giorno vi segnalo un'inchiesta che poi trovate le pagine 4 e 5, che invece parla dei prezzi con il potere d'acquisto, che tutti noi più o meno lo sappiamo, chi ha girato l'Italia, lo abbiamo fatto quasi tutti, si è accorto di questa cosa: tra Milano e Napoli non c'è gara, cioè a Milano il potere di acquisto è molto più basso. La Gazzetta dello Sport al centro mette le Olimpiadi, ma il palchettone è dedicato all'Inter, quindi non lo dico veramente solo con un po' di ironia, non ci liberiamo dal calcio neanche quando a Rio c'è una giornata memorabile come quella di ieri. In ogni caso, la notizia, l'avete sentito, è quella della rottura tra l'Inter e il suo allenatore Roberto Mancini, tanto che il titolo è Man Ciao, ribaltone Inter, la panchina Frank de Boer. E poi però a centro pagina Italia due ori storici, Basile nel judo, Garozzo nel fioretto. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura ancora diversa perché ha scoperto i giornalisti che ne parlano, ne trovate tutto a pagina 2, che Roberto Mandolini, il carabiniere accusato di falsa testimonianza nella vicenda di Cucchi, il ragazzo morto, perché in realtà è una sentenza, ci sono sentenze contrastanti. In ogni caso Stefano Cucchi è morto mentre era in custodia e i carabinieri hanno carabiniere Roberto Mandolini, che è sotto inchiesta per aver coperto il violento pestaggio di Stefano ed era il comandante di una delle squadre del battaglione mobile in servizio antiterrorismo a Roma, è stato promosso, e da qui il Fatto Quotidiano appunto sceglie di aprire su questa cosa, anche se poi la fotonotizia è dedicata a Renzi, ovviamente in senso negativo. Il titolo è L'uomo sandwich di Palazzo Chigi, è un fotomontaggio, c'è Renzi con sullo sfondo tante bottiglie di Coca-Cola e poi si parla di tutte le imprese di cui in qualche modo lui ha cercato di essere, secondo il Fatto Quotidiano, testimonial, soprattutto durante le missioni all'estero, da Italy e Farinetti fino a Grom, Tecnogym, Marchionne, la Fiat, Armani e Apple. Il premier è testimonial di un numero crescente di aziende private spesso legate ad amici, questa è la tesi del Fatto Quotidiano, poi trovate tutte le pagine 4 e 5. Anche il Messaggero apre sui migranti, sulle tensioni a Ventimiglia, attenzione ai confini, Ventimiglia naturalmente è il confine tra Italia e Francia, arrestati 6 antagonisti con spranghe e coltelli, c'è allerta però anche alla frontiera svizzera e secondo gli 007 c'è dietro questa protesta c'è una regia, e tanto che appunto anche il Ministero dell'Interno, il Viminale, ha mandato dei rinforzi, come avete visto anche sul Corriere è intervenuto direttamente il ministro Alfano. Sul Messaggero però si continua a seguire con grande spazio la questione dei rifiuti e in particolare dello scontro tra le opposizioni e il Movimento 5 Stelle per il caso dell'assessore Muraro, che è l'assessore all'ambiente della Giunta di Roma. Si è scoperto nei giorni scorsi che era stata consulente per molti anni della stessa azienda municipalizzata e c'è chi l'accusa di conflitto di interesse. Ora è saltata fuori sono saltate fuori delle telefonate con Salvatore Buzzi, che è il principale indagato della inchiesta Mafia Capitale, e ancora insomma Virginia Raggi, il neo sindaco di Roma, ha confermato la sua fiducia per l'assessore, però la vicenda non è chiusa perché sembra che ogni giorno salti fuori qualcosa di nuovo. Libero titola su un episodio che è avvenuto a Venezia: gli islamici sputano su Gesù. 4 donne velate sono entrate in una chiesa di Venezia, a pochi passi da San Marco, hanno offeso il crocifisso. Altri hanno preso l'ostia e poi l'hanno buttata a terra, e c'è chi si è steso a terra, e c'è chi ha steso un tappeto a terra, ha pregato Allah dicendo: il Papa lo permette. Il commento è di Vittorio Feltri su questa vicenda della chiesa di San Giuliano a Venezia. La fotonotizia però è dedicata a Zonin, Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza, che sapete ha un buco gigantesco e soprattutto ha fatto perdere i risparmi a 120.000 correntisti, una vicenda molto triste perché se è vero che i risparmiatori devono stare attenti quando investono, in questo caso, a differenza per esempio della vicenda dei bond argentini, in questo caso i tassi di interesse erano tutto sommato ragionevoli, ma si è scoperto poi che le obbligazioni subordinate non davano alcuna garanzia, così come non la davano le azioni della Banca Popolare di Vicenza, che quotata non era, che si sono praticamente azzerate di valore. Però Gianni Zonin è stato avvistato a Panarea e 2 giornali locali hanno riportato questa notizia, e quindi Nino Sunseri ci racconta questo paradosso e il titolo è: ne ha sbancati 120.000 ma è in ferie a Panarea. Il Giornale anche in questo caso titola sul caos a Ventimiglia, e con un taglio polemico verso il ruolo che sta avendo il Ministero dell'Interno nel coordinare la polizia. La polizia lasciata sola tra teppisti e migranti e ci scappa il morto. I no border sono un pericolo e ora sono pure armati e lo Stato non difende i poliziotti. Questa è la tesi del Giornale. E poi trovate veramente 3 pagine da mani sul volante, da pagina 15 a pagina 17, perché l'infinita questione dell'Alitalia, che per tantissimi anni abbiamo pagato noi con le nostre tasse, con innumerevoli tentativi di salvataggio. Ora sono entrati, è entrata la compagnia Etihad in Alitalia e ha avviato un percorso di risanamento che sembra anche funzionare, però continua a perdere soldi l'Alitalia. E quello che riepiloga Stefano Filippi è la casta infinita, i privilegi li pagano i passeggeri, cassa integrazione dorata e viaggi gratis finanziati con la soprattassa di 3 euro. Ricorderete, a proposito di viaggi gratis, l'episodio dell'ultimo sciopero indetto dai dipendenti dell'Alitalia, perché appunto la nuova proprietà e il nuovo amministratore delegato avevano deciso di abolire i biglietti gratis per i dipendenti e c'era stata una rivolta. Prendiamo anche il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, perché naturalmente grande enfasi a quello che sta succedendo a Ventimiglia, migranti ultimatum della Liguria, con la preoccupazione e anche appunto l'esortazione del governatore della Liguria Toti, che dice ci vuole un centro di espulsione e i no borders devono essere mandati via da Ventimiglia. Un'altra notizia locale, che però soprattutto magari in questo periodo, comunque chi spesso va a Ventimiglia, ma anche è una notizia che si lega anche a tutto quello che ci è stato detto e stato scritto sull'emergenza dei trasporti locali dopo il disastro in Puglia del 12 luglio scorso, quando due treni si sono scontrati in una tratta dove c'è un binario unico. C'è un'altra tratta dove c'è un binario unico, che è quella di Genova-Ventimiglia, ma, spiega Alessandro Cassinis, rinviato il progetto del doppio binario tra Genova e Ventimiglia perché è troppo costoso. Ma veniamo, prima di lasciarci un attimo per una pausa, anche alle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore, su una questione che riguarda molti di noi. In Italia è stato introdotto da poco, però sta prendendo piede abbastanza velocemente. Parliamo dello smart working, cioè letteralmente lavoro intelligente, che vuol dire trovare delle forme di lavoro che comprendano anche per esempio la modalità di lavoro da casa, il lavoro per obiettivi più che per occupazione di una sedia da una certa ora a un'altra ora. E Francesca Barbieri ci racconta come allo smart working faccia bene il riposo, in che senso? Che l'introduzione del diritto alla disconnessione potrà dare un nuovo slancio al lavoro agile, perché se si lavora da casa per definizione lo si fa col computer, con l'iPad, con altri mezzi tecnologici, si può però anche introdurre il diritto di non essere sempre reperibili o sempre disponibili, introducendo appunto per esempio degli obiettivi molto chiari. La sperimentazione nella pubblica amministrazione è già partita. Il Comune di Genova nel 2015 ha introdotto il lavoro agile per 26 messi notificatori e a ottobre partiranno altri 6 progetti per il personale di diversi settori. Quindi l'idea è quella di ottimizzare i tempi di tutti, e se poi parliamo di pubblica amministrazione, senza naturalmente far diminuire il livello del servizio per noi che ne usufruiamo. Vi dicevo, alle pagine 16 e 17 la puntata di oggi sulle guide per i professionisti, e oggi appunto è tutta dedicata ai bonus sui lavori per ristrutturazioni o per risparmio energetico, e ci sono tutte le regole da seguire per i professionisti che seguono queste pratiche, ma anche per noi cittadini che magari scegliamo di approfittare di questa opportunità. L'esperto risponde, che è il supplemento che viene allegato ogni lunedì al Sole 24 Ore, dove appunto ci sono le domande dei lettori e le risposte degli esperti, con un focus sulla prima pagina sugli amministratori di condomini, con tutte le novità sugli obblighi degli amministratori e le nuove regole. Sul Corriere della Sera vi segnalo un'intervista bellissima all'ammiraglio Vincenzo Melone, che è il capo della Guardia Costiera, e ha raccontato ad Antonio Macaluso in cosa consiste il suo lavoro, specie in questi tempi di emergenza e immigrazione, specie in estate. Il mio compito è salvare le vite, non escludo l'ISIS dietro gli sbarchi. Una Libia più stabile ci aiuterebbe. Ma ci lasciamo un attimo per una pausa. Buongiorno e bentornati alla rassegna stampa. Scusatemi, sorrido perché L'ascoltatore che prima mi ha detto di aver iniziato con il lecchinaggio adesso mi dice fai pena a leggere i giornali, fai quello che sai fare, niente. E vabbè, purtroppo non si può proprio piacere a tutti, è impossibile. E anzi, approfitto perché a me piace molto, forse l'avete capito, questo rapporto diretto che chi ha che si ha con gli ascoltatori tramite i messaggi, quindi 349-238-6666 per critiche o qualsiasi tipo di suggerimento. E poi se volete, vabbè, io ho anche un account Twitter, Giulia_Crivelli, e sono anche su Facebook, e in due social network sono già forse fin troppi. Ma torniamo alle pagine del Corriere della Sera, perché si avvicina il Palio di Siena e inevitabilmente uno pensa anche al Monte dei Paschi di Siena, la banca che proprio a Siena è nata, è la banca più antica del mondo, e sappiamo in che enorme, ancora non risolta crisi sia sprofondata. E allora il titolo di Federico Fubini è Il Palio non tradisce il Monte dei Paschi, perché le contrade non fanno mai default, hanno un sistema elettorale trasparente e la differenza rispetto al rapporto tra la banca e la politica tradizionale, con appunto un riepilogo di tutte queste contrade che hanno quasi tutti i nomi di animali e un motto. Per esempio quella del bruco ha "Come rivoluzione suona il mio nome". E poi c'è la contrada del leocorno, "Fiede risana al parlarma ciò in fronte". E insomma un'antica tradizione che resiste a tutto, anche se penso che anche quest'anno ci saranno le proteste degli animalisti, perché a volte capita, non sempre per fortuna, che qualche cavallo si faccia molto male durante questo tradizionale Palio di Siena. Aggiorniamoci anche, lo si può fare naturalmente anche su internet, su quello che sta succedendo ad Aleppo. È stato rotto l'assedio, racconta Rosalba Castelletti, con un raid del regime. Gli insorti, aiutati dai jihadisti dell'ex fronte al-Nusra, hanno spezzato l'accerchiamento dei quartieri est, ma l'aviazione di Damasco bombarda il corridoio con il sud della città. E c'è anche un accenno a quello che ha detto ieri Papa Francesco, spiegando che in questo momento, naturalmente, come quasi sempre negli assedi delle città, a pagare il prezzo più alto sono i bambini e le donne, o le persone anziane, cioè quelle che non sono altrove per combattere. Vi segnalo anche un'intervista a Mustafa Senalla, leader della compagnia petrolifica libica, che contesta alcuni accordi e dice: criminale il blocco dei pozzi, ha impoverito le casse di Tripoli. Forse ricorderete che la settimana scorsa, dalle pagine di Materie Prime del Sole 24 Ore, avevamo segnalato appunto questa importante svolta che ci potrebbe essere, cioè di riaprire i pozzi petroliferi della Libia, che naturalmente rappresentano una fonte di guadagno per il governo libico, anche se poi naturalmente tutto complicato, perché in questo momento la Libia ha un governo ufficiale e un governo che ufficiale non è, quindi ripristinare anche una normalità economica è difficilissimo. Forse anche ricorderete, la settimana scorsa avevamo visto come il settore bancario, ossia al di là delle crisi palesi e come quella di Monte dei Paschi di Siena, abbia comunque bisogno di una ristrutturazione anche dal punto di vista dell'occupazione. E allora Vittoria Puled e Filippo Santelli ci raccontano: più app e meno filiali, nella crisi del credito pagano i bancari. Perché purtroppo penso che lo notiamo tutti nelle nostre città, hanno chiuso tantissime filiali, questo vuol dire posti di lavoro in meno. Il settore ha già perso 36.000 dipendenti, in arrivo altri 23.000 tagli, pesano il calo dei margini e la spinta tecnologica. Vi dicevo dal Messaggero l'approfondimento più ampio sulla crisi dei rifiuti a Roma, ma anche sullo scontro tra il sindaco Virginia Raggi, l'assessore Paola Muraro, che lei ha scelto come assessore all'ambiente e che quindi deve occuparsi anche dell'emergenza rifiuti, e le opposizioni. Le quattro inchieste sui rifiuti si accelera su Muraro. Alla riapertura dell'attività giudiziaria la procura è decisa a sentire l'assessora, quindi comunque non sarà in agosto. Nel mirino i rapporti con Buzzi, Fiscone, Panzironi, cioè tutte persone indagate, come dicevamo, nella inchiesta Mafia Capitale. Ma non c'è solo l'emergenza rifiuti a Roma, c'è anche l'emergenza trasporti, quindi AMA, l'azienda municipalizzata che si occupa di rifiuti, e l'ATAC, l'azienda invece che si occupa di trasporti, l'azienda è in profondissima crisi, deve ripianare debiti per 1,3 miliardi, non ci sono i soldi neanche per la manutenzione ordinaria, quindi, e men che meno per rinnovare il parco mezzi. Servono con urgenza 58 milioni solo appunto per l'emergenza, perché ci sono moltissimi autobus rotti che peggiorano ulteriormente la situazione dei dei trasporti a Roma, del trasporto locale a Roma. Vi dicevo, l'inchiesta che apre la stampa, la trovate a pagina 3 della stampa, su questa, lo racconta Linda Laura Sabadini, su questa decisione della Apple: scommettere sulle diversità rende le aziende più competitive. La strada imboccata dalla multinazionale americana può servire anche a noi, perché l'Italia, più di altri paesi europei, deve coprire questo gap di genere. Vi dicevo, l'approfondimento non proprio gentile, tutt'altro che gentile, e qui l'ascoltatore che mi accusa di essere renziana avrà di che ulteriormente commentare, e l'ho trovata appunto a pagina 4 e 5, questa inchiesta del Foglio intitolata Renzi, così un premier diventa testimonial, un leader tanti brand, da Italy allo sponsor Farinetti fino a Marchionne e la Fiat, quindi gelati Grom, Tecnogym e molti altri. Il premier vive il suo ruolo come uno spot perenne. Questo è il racconto che poi fa Alessandro Robecchi, che forse ricorderete, è stato per anni l'autore di una rubrica sulla prima pagina del Manifesto, e è anche scrittore e adesso collabora con Il Fatto Quotidiano. L'articolo su due pagine è corredato da tante foto in cui appunto Renzi appare o con la Coca-Cola o mentre corre accanto a Nerio Alessandri, fondatore della Tecnogym, su un tapirulan Tecnogym, mentre è allo stabilimento della Ferrari con Marchionne, eccetera. Vi dicevo, sul giornale questa inchiesta di tre pagine sulla casta infinita dell'Alitalia, pensioni baby, cassa integrazione extra lusso, viaggi gratis, i conti sono in rosso ma i dipendenti non mollano i privilegi. E all'interno ci sono delle tabelle che riassumono la situazione degli ultimi anni, ma si potrebbe andare molto più indietro che per esempio al 2009, da cui parte il giornale, e i numeri sono impressionanti, tra l'altro anche i numeri del confronto tra l'Italia e i suoi concorrenti, per numero di passeggeri, per costo del lavoro. Forse, dice addirittura qui, spunta un'ipotesi che non era ancora stata fatta: per rimettere in sesto i conti spunta la fusione tedesca. I soci arabi controllano infatti anche Air Berlin, dalle nozze tra le due società il possibile arrivo di nuovi capitali, perché come vi dicevo, nonostante questo impegno di Etihad a risanare i conti di Alitalia, il risanamento non c'è stato e quindi si cercano ancora altre strade, anche perché ci sono queste difficoltà molto grandi con i sindacati per far passare i piani di risanamento che Etihad sta cercando di tracciare. Poi un'intervista bellissima, e insomma sapete che io amo molto cani, gatti e notizie sul mondo animale, e qui parla il presidente dell'unità cinofila di salvataggio, Ferruccio Pilenga, che spiega: l'esercito dei cani è più forte dei Marines, questo è il suo virgolettato. Pensate, in questa estate sono 350 i cani, sono quasi tutti Labrador e Terranova, che pattugliano le spiagge, nuotano tra le onde senza paura, basta uno per soccorrere sei persone. E tra l'altro c'è anche un accenno al fatto di come questi cani servano tantissimo anche per la pet therapy, e chiede Simona Bertuzzi: i piccoli degli pazienti degli ospedali impazziscono quando vi vedono. E Ferruccio Pilenga risponde: siamo stati al Buzzi, al San Raffaele, alla De Marchi di Milano, un'esperienza bellissima. Ai bimbi raccontiamo sempre la favola del cane Reef e della farfalla, che è la storia di questo cane che salta dall'elicottero per andare a trovare il bimbo in ospedale e poi aspetta in spiaggia che lui guarisca. Ma cosa sentono i cani quando si tuffano in acqua? La nostra adrenalina, risponde il presidente appunto dell'unità cinofila di salvataggio. Respirano la paura dell'uomo. Ricordo un'esercitazione del 23 gennaio all'idroscalo. C'erano una nebbia e un freddo pazzesco. Operavamo con due elicotteri dell'aeronautica. Gli uomini stavano in acqua e i cani lì per salvarli. L'esercitazione andò benissimo, ma nessuno dei volontari fu poi in grado di dire quale fosse la temperatura dell'acqua. E trovate questa bella intervista a pagina 17 di Libero. E a proposito di salvare vite, forse avrete sentito, è scomparso Pitanghi, il chirurgo diventato famoso perché era un chirurgo plastico, ma come tutti i chirurghi che si occupano di chirurgia plastica estetica aveva tutte gli strumenti per fare anche chirurgia ricostruttiva, e quindi si faceva pagare e anche profumatamente da tutti i suoi pazienti VIP. E si ricordano tra l'altro anche pazienti di tempi in cui non era così normale parlare apertamente di chirurgia plastica, e si sarebbero rivolti a Pitanghi, racconta Matteo Persivale, per esempio Jacqueline Kennedy, poi Onassis, il re Hussein di Giordania, François Mitterrand e Wallis Simpson, naturalmente l'americana che fece abdicare il re subito dopo la seconda guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale. E questa grandissima storia d'amore, appunto, di un uomo che rinuncia al regno per il suo grande amore. Questo chirurgo brasiliano, però, è vero, appunto, era il chirurgo dei VIP, chiedeva migliaia di dollari ai VIP, ma operava gratis i bimbi con le malformazioni. Scrive Matteo Persivale nell'ultima parte dell'articolo. Perché se la rivoluzione scientifica di Pitanghi è stata quella di importare nella chirurgia estetica le tecniche ricostruttive, una rivoluzione ancora più importante l'ha fatta nella creazione della moderna figura del chirurgo estetico. Il comandamento più importante: non strafare. Perché se Pitanghi ebbe un segreto, fu quello di non strafare, perché significherebbe creare una finzione, una maschera senza espressione, e l'espressione è vita. Chiamava al volto di una persona eccessivamente ritoccata dal chirurgo la maschera della morte. È morto all'età di più di 90 anni, quindi non so, 93 anni, forse, e tra l'altro era stato anche alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, quindi una cosa improvvisa, probabilmente stava bene, quindi sicuramente negli ultimi anni di queste maschere della morte, come le definiva, ne avrà viste tante, e probabilmente appunto erano molto lontane dal suo stile. Sempre dal Corriere della Sera, un'altra bella storia di quelle che si possono raccontare più facilmente d'estate, la trovate a pagina 25. Agostino Gramigna ci racconta quello che sta succedendo nel parco Adamello Brenta, che può essere, potrebbe diventare, un modello di ripopolamento e biodiversità, perché si è dimostrato che l'equilibrio tra animali e abitanti è possibile. Naturalmente il riferimento è anche a quello che succede in altre zone, con l'emergenza per esempio dei cinghiali o tutti quei casi in cui animali selvatici si spingono verso le città. Non succede soltanto in Italia, perché in qualche modo abbiamo cambiato noi, o insomma è cambiato l'ecosistema, e loro per sopravvivere fanno cose che mettono in crisi appunto l'equilibrio tra animali e abitanti. Vi leggo l'ultima parte di questo articolo di Agostino Gramigna, che appunto è andato a far visita a questo stupendo parco dell'Adamello Brenta, che è in Trentino Alto Adige, che è fatto di 620.000 chilometri quadrati tra la Val di Non, le Giudicarie e la Valle di Sole. Ci sono 60.000 ungulati, cioè gli animali con gli zoccoli, tra cervi, caprioli, camosci e stambecchi, 50 orsi bruni, 2 linci, 60 coppie di aquile e tanti altri rapaci. In soli 2 decenni è diventata una delle aree con più specie d'Europa. A proposito sempre di medici e di come veramente tutto sommato sia una professione davvero speciale, che richiede sicuramente una vocazione e non soltanto tecnica scientifica, a pagina 28 del Corriere Gian Giacomo Schiavi ci racconta la storia di Momcilo Jankovic, 64 anni, milanese con radici serbe, che lavora alla clinica pediatrica del San Gerardo di Monza e oltre a naturalmente penso a provare a lavorare con chi fa di professione la terapia in corsia per i bambini, lo fa lui stesso, i sorrisi di Jankovic per i bimbi malati. È un medico ed è specializzato in particolare in leucemie, ma passa tantissimo tempo proprio con i bambini ad ascoltarli, e dice quando uno di 6 anni ti dice io vado in un posto dove non verrà nessuno di voi, devi aiutarlo a creare un ponte verso la vita. Ho imparato molto da loro, dai genitori e dai volontari. Tutti i nostri pazienti si meritano un impegno totale. Ogni attimo è cruciale per chi deve affrontare una sfida decisiva. Le medicine sono fondamentali, ma è indispensabile sentirsi amati. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a Germano, che mi dice non è possibile che il parco abbia 620.000 metri quadrati perché l'intera Italia ne ha 300.000. È vero, sono 620 chilometri quadrati. Ero presa dall'entusiasmo per questa notizia di ritrovato equilibrio tra animali e abitanti. Restiamo ancora sul Corriere della Sera. Francesco Carrozzini ha raccontato a Stefania Ulivi, un po' in anteprima, il documentario che presenterà la Mostra del Cinema di Venezia, che si apre a Venezia il 31 di agosto. È un documentario su sua madre. E infatti il titolo, che riecheggia naturalmente il titolo di un film di Almodovar, è Tutto su mia madre. Un ritratto intimo del figlio di Franca Sozzani, così mi ha confessato che papà era sposato. Franca Sozzani è una figura storica, non so se le piacerà questo aggettivo, in ogni caso una figura importante nel mondo della moda italiana, e non solo, perché è dal 1988 è direttore di Vogue Italia, dal 2006 è anche direttore di Vogue Uomo. E c'è questo passaggio però che secondo me è molto toccante da parte del figlio, che è fotografo e regista, che dice, ma come ti è gli chiede Stefania Ulivi come è venuta questa idea, e lui risponde: era il 2010, mio padre Francesco stava morendo, l'impressione era di non averlo conosciuto, appunto quel padre che quando Franca Sozzani è rimasta incinta aveva in realtà un'altra famiglia, quindi non ha vissuto proprio, Francesco non lo ha conosciuto molto come padre, né quest'uomo ha vissuto la paternità di questo figlio avuto da Franca Sozzani. Sapere troppo poco, quindi l'impressione era di non averlo conosciuto, di sapere troppo poco di lui. Per reazione ho sentito il bisogno di catturare mia madre, non volevo succedesse anche con lei. E poi la frase finale: contrasti tra madre e figlio, e Francesco Carrozzini risponde: certo, discussioni continue, alla fine ha fatto bene a privilegiare le cose controverse a quelle carine, un santino non l'avrei mai voluto. E un'altra bella storia, sempre di animali, appunto di queste storie estive, su due pagine su Repubblica, ce la racconta Pietro Veronese, e ci racconta la storia di questo capo Masai che traccia la strada agli elefanti. E le fotografie sono del fotografo Andrea Quenzi, che racconta appunto il sogno di questo capo Masai, che si chiama Daniel Latouresh, di cui c'è una foto, di creare il primo corridoio protetto per la migrazione degli elefanti in Kenya. Grazie a questo corridoio, aperto nel 2013, sono arrivati quasi 1400 elefanti, e perché naturalmente il problema è che specie quando fanno queste migrazioni gli elefanti diventano ancora più vulnerabili per i bracconieri. Ogni anno ne vengono uccisi 35.000 per prelevare l'avorio delle zanne. Dicevamo di Ivo Pitanghi e della sua idea di non strafare mai quando si toccano i visi o i corpi delle persone per correggere i difetti, e su Repubblica Arianna Finos prende spunto da un lungo sfogo di René Zellweger, la protagonista. Il suo film più famoso sono stati la serie di Bridget Jones, ma ne ha fatti anche tanti altri, e è stata accusata recentemente, la parola è questa, proprio accusata, perché non è stato semplicemente notato, è stato notato e poi è stata molto criticata di essersi rifatta. E su Facebook la Zellweger ha scritto: rifatta io, falso, ma tutti ormai pensano solo al fisico. O le fotografie mentono, oppure mente lei, perché sicuramente ha fatto qualcosa. E quello che colpisce sempre è quando, di fronte all'evidenza, le persone che hanno fatto ricorso alla chirurgia plastica per le ragioni più svariate, non è una, poi chi non è chirurgo, Pitanghi forse poteva permettersi di dare dei giudizi perché era chirurgo, tutti noi altri il nostro giudizio estetico vale, insomma ognuno può dare il suo, però ecco, negare l'evidenza è un po' così, è un po' sciocco, perché appunto negare l'evidenza non serve mai. Al di là del fatto che magari c'è un esercizio di pettegolezzo esagerato. A Ivo Pitanghi è dedicata anche la copertina di Macro, il supplemento della cultura del Messaggero. Il titolo è Addio al guru del lifting, una delle tante definizioni che gli era stata data nel tempo era Michelangelo del bisturi, perché appunto faceva delle cose che non stridevano mai. Un'altra inchiesta molto interessante della Stampa, richiamata anche in copertina, la trovate poi alle pagine 12 e 13, terra sfruttata, più poveri già da oggi. L'allarme è lanciato da varie organizzazioni ambientaliste, è che quest'anno, il giorno in cui si intacca il capitale di risorse rinnovabili, inizia in anticipo di 5 giorni rispetto al 2015. L'Italia, per esempio, vive 4 volte al di sopra delle proprie capacità ecologiche. Delle foreste ai pesci, riduciamo il tesoro delle generazioni future. Naturalmente è una forma di di egoismo, questa di sfruttare il pianeta finché ci siamo noi senza pensare alle generazioni future. E poi una storia bellissima, raccontata da Stefano Pazzini, che è andato a Colobraro, un paese vicino a Matera, che per tantissimi anni, e nessuno capisce bene perché, ha avuto la fama di portare sfortuna, o che comunque in quel paese succedevano cose sfortunate. Sappiamo quanto sia diffusa la scaramanzia in Italia e quanto anche possa essere, soprattutto per le persone, veramente una maledizione essere etichettati come persone che portano sfortuna. E Andrea Bernardo, che è il sindaco di Colobraro, ha raccontato a Stefano Pezzini come per troppi anni siamo stati derisi, abbiamo ribaltato i pregiudizi e ottenuto un risarcimento morale, oltre che un rilancio turistico. È la dimostrazione che cultura, ironia e fantasia possono aiutare l'economia. E tra l'altro c'è la copertina, c'è l'immagine del reportage del 2006 in cui la stampa aveva già scoperto appunto Colobraro e raccontava questa leggenda, perché altro non può essere, di questo paese che si dice appunto portasse Iella. Un altro interessante approfondimento della stampa, pagine 22-23, su una diga che fu realizzata sul ghiacciaio del Sabbione tra il 1949 e il 1953, quindi una diga quasi al confine, in Lombardia, quasi al confine con la Svizzera. E Ermanno Olmi, che all'epoca era un giovane regista, anzi non aveva neanche di fatto iniziato la sua carriera, per Ermanno Olmi fu l'occasione del debutto con la macchina da presa, e che naturalmente a quell'epoca poté raccontare in bianco e nero. È molto interessante questo, il tema delle dighe, lo abbiamo, chi ha sentito la rassegna stampa dei settimanali sabato, abbiamo parlato delle grandi dighe sul fiume cinese Mekong, e anche di quella che era del progetto della gigantesca diga São Luís do Tapajós in Amazonia, quindi in Brasile, a proposito di Brasile. E questo progetto contestatissimo l'aveva raccontato anche Laura Bettini all'altro pianeta, ed è stata proprio lei a segnalarmi 2 giorni fa, e in effetti su internet si trova tutto, che il progetto è stato stoppato. Il governo brasiliano non darà più i permessi, era una minaccia per tutte le popolazioni indigene della zona, ma comunque le grandi dighe sono sempre una minaccia per l'ambiente circostante, per le persone e per la natura. Un'inchiesta del Fatto Quotidiano invece sul tifo che viene definito le curve nere d'Europa, cori, botte e svastiche. C'è questo vento xenofobo che soffia appunto anche negli stadi. Ce lo racconta Luca Pisapia. La crescita politica dell'estrema destra favorisce e accompagna la radicalizzazione degli ultras. L'onda neonazista è sempre più forte in tutte le gradinate. E poi, a proposito di recuperare quello che è stato scritto o fatto in passato, il giornale ripubblica un articolo di Guido Piovene, grandissimo scrittore e giornalista, che morì a Londra nel 1974, è proprio del 74 questo articolo, ma se non sapessimo che è del 74, forse penseremmo che sia stato scritto oggi. Il titolo: il consumismo cancella quello che siamo, non sappiamo più fare le cose di una volta. Guido Piovene racconta un mondo che sta finendo, che somiglia molto al nostro. E tra l'altro invece alla pagina successiva trovate un altro articolo di molti anni fa, 11 aprile 1915, firmato Benito Mussolini, che appunto iniziò la sua carriera, che poi divenne politica, come giornalista all'Avanti. E come forse ricorderete, da settimana scorsa il giornale ha deciso di ripubblicare alcuni articoli scritti appunto subito dopo la prima guerra mondiale da Benito Mussolini. Di interviste, a proposito di interviste, il Libero invece ha un'intervista di Simona Voglino-Levi a Oliviero Toscani, che non si smentisce come provocatore. Il titolo scelto per l'intervista, lo spunto di cronaca è anche che è uno dei giudici di questo talent dedicato alla fotografia che si chiama Master of Photography, e il titolo è: siamo un paese di buzzurri che piange e si fotte da solo. E su Renzi ha un giudizio molto duro: Renzi e la mediocrità italiana è un giovane vecchio vecchissimo, un ruffiano coi denti sporgenti e l'aria da primo della classe. E vi segnalo anche, visto che non ci siamo sentiti ieri, e ieri è uscito il nuovo numero dell'Espresso per la prima volta di domenica, abbinato alla Repubblica, perché l'Espresso ha avuto un cambio della guardia alla direzione. Vicinanza ha lasciato a Tommaso Cerno, che era già stato collaboratore, aveva già lavorato per l'Espresso, poi per 2 anni ha lavorato e rilanciato il Messaggero Veneto, che è uno dei quotidiani locali della galassia Repubblica L'Espresso. Il titolo della copertina, la copertina è dedicata al referendum, non ne abbiamo parlato oggi, ma sicuramente ne parleremo nei prossimi giorni e anche dopo agosto, quando appunto non sarò più io a leggere i giornali, tornerà Alessandro Milan, ma di referendum si continuerà a parlare. Tra l'altro per oggi è attesa una decisione, forse anche qualche indicazione sulla data effettiva del voto. In ogni caso il titolo dell'Espresso: referendum all'italiana, doveva cambiare il paese, invece il voto è diventato un teatro, un gioco dell'oca in nome della Costituzione. Sì, no, forse. Ma Renzi potrebbe rovesciare tutto. Questa è la provocazione di Tommaso Cerno e dire: se vince la riforma me ne vado. E poi il Foglio quotidiano, il Foglio del lunedì, che raccoglie quello che secondo il Foglio è il meglio della settimana precedente. Tra l'altro questi sono oggi praticamente sono 20 anni di Foglio dei Fogli, perché il primo numero di questa antologia della stampa della settimana precedente è uscito il 5 agosto del 96, quindi sono passati esattamente 20 anni. Il collage di dichiarazioni principale è dedicato a quello che i cinesi stanno facendo nello scacchiere del calcio italiano. Sapete che Inter e praticamente Milan sono ormai cinesi, mentre gli altri due collage, diciamo, editoriali, uno del direttore Claudio Cerasa è dedicato a Mattarella, e quello invece di Giuliano Ferrara, il fondatore, è dedicato al Brasile. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli e ci sentiamo domani.